Sicuramente la notizia dell'arresto di Mohamed Bashir si inserisce nel più ampio spettro degli arresti che vanno avanti in Egitto ormai da anni, sono arresti di oppositori politici sostanzialmente. Il caso di Bashir è molto particolare perché fa parte di questa Egyptian Initiative for Personal Rights, cioè una ONG che si occupa di diritti umani, che è la stessa per la quale, con la quale collaborava Patrick Zaki. La particolarità di questo caso è che l'attivista, il difensore dei diritti umani, è stato arrestato dopo una riunione che si è tenuta all'interno di questa ONG egiziana con alcuni ambasciatori, tra cui l'ambasciatore italiano e altri ambasciatori europei, dove appunto si è parlato di violazione dei diritti umani in Egitto. Quindi evidentemente le autorità egiziane hanno subito notato questa attività di disseminazione che faceva l'organizzazione di Bashir e ha quindi arrestato uno delle figure rilevanti, importanti di questa organizzazione non governativa. Ancora una volta si vanno a colpire attivisti che difendono i diritti umani e vengono poi inseriti, e queste sono le prime indiscrezioni che noi abbiamo, in casi che coinvolgono oppositori politici. Infatti il caso di Bashir dovrebbe essere il caso 855, che coinvolge anche tanti altri attivisti. Ricordiamone una tra tanti, che è Mayenul Elmasri, un'attivista che si è sempre battuta per la difesa dei diritti dei lavoratori. Anche lei fa parte del caso 855, quindi evidentemente il tentativo ancora una volta in Egitto è quello di mettere a tacere, di mettere il bavaglio a chiunque voglia parlare di difesa dei diritti umani, di diritti umani, di difesa delle libertà individuali e politiche in un paese che vive in una durissima repressione dopo il colpo di Stato del 2013. Pensiamo al caso di Patrick Zaki, che in Italia ha avuto un seguito molto importante perché studiava all'Università di Bologna, perché si occupava anche lui di diritti umani, di diritti delle minoranze, di questioni di genere. Il suo caso è emblematico perché una volta che è tornato in Egitto per fare visita alla sua famiglia, ormai stiamo parlando del febbraio scorso, è poi completamente scomparso dalla circolazione. Si sa che è stato arrestato, ci sono delle accuse generiche che riguardano la sovversione, nel senso della stabilità dello Stato, oppure piuttosto che accuse dirette direttamente alla sua diffusione di notizie false, quindi accuse che vengono un po' utilizzate in maniera generica per tanti attivisti, e poi da quel momento non si ha più nessuna certezza sul percorso che seguirà Patrick, perché sono stati fatti i primi rinnovi della sua detenzione preventiva per di 15 giorni in 15 giorni, poi di 45 giorni in 45 giorni. Non si sa quali saranno le accuse finali, quando sarà rilasciato, in che condizioni si trova. La sua famiglia ha avuto difficoltà a poterlo vedere, è asmatico, c'è la questione dell'affollamento delle carceri, delle torture all'interno delle carceri in Egitto che va avanti da decenni e che è direttamente collegata anche alla questione della pandemia e come la pandemia sta mietendo vittime e comunque colpendo i detenuti. Quindi evidentemente la stessa sorte che è capitata a migliaia, perché Amnesty International parla di oltre 60.000 detenuti politici in Egitto, riguarda anche questi attivisti, con un aggravante. Nel caso di Patrick, il fatto è stato stigmatizzato il suo impegno per la comunità a favore, o comunque per lo studio che lui segue sulle questioni di genere, quindi in quel caso coinvolge anche altre questioni che sono legate alla repressione della comunità LGBT. Nel caso di Bashir stiamo parlando di un caso emblematico, perché prima dicevamo della questione del numero del caso 855, c'è una nuova tendenza da parte delle autorità egiziane, quella di ruotare gli attivisti da un caso ad un altro per non rilasciarli mai, e questo potrebbe essere un esempio in questo senso, quello di Bashir, appunto, di continuare ad andare avanti con una custodia cautelare che non finisce mai. In teoria in Egitto al massimo ci possono essere 2 anni di custodia preventiva, e già sono un periodo lunghissimo, ma secondo i dati che vengono resi noti da vari think tank, per esempio la Procura della Sicurezza di Stato, che è uno degli organi che si sta occupando di più di questioni di detenzione preventiva, sta stigmatizzando proprio il fatto che la custodia cautelare si estende per un periodo talmente lungo di tempo, gli attivisti vengono ruotati da un caso ad un altro, e quindi alla fine non si sa mai quando escono, quali sono veramente le accuse nei loro confronti, e quindi non c'è certezza del processo, non c'è certezza della pena, e poi ovviamente aggiungiamo le condizioni terribili in cui versano spesso nelle carceri egiziane, seppure arrivano ad essere incarcerati, perché ci sono tanti attivisti che spariscono nel nulla, quindi sparizioni forzate, e poi non si sa più niente di loro.